Do il benvenuto ad Elisa Mereghetti, regista del documentario 5 nanomoli, il sogno olimpico di una donna trans. Ciao Elisa e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, ciao Rachele. Allora, il progetto del documentario, come dicevamo, si chiama 5 nanomoli ed è il primo documentario italiano ad avviare anche una campagna di impact a livello nazionale e internazionale. Innanzitutto, Elisa, ti volevo chiedere che cos'è una campagna impact e perché è così importante il vostro messaggio. Dunque, questo film documentario racconta la storia di Valentina Petrillo, questa atleta ipovedente transgender che ha fatto una bellissima e coraggiosa battaglia per gareggiare nella categoria di elezione, quindi la categoria femminile. Una storia bellissima che noi stiamo raccontando con Gruppo Trans, è una coproduzione tra la nostra società Ethnos e Gruppo Trans, ed è un film abbastanza, diciamo, dirompente per quanto riguarda il messaggio che si porta dentro, nel senso che stiamo veramente cercando di aprire delle porte, di scardinare dei pregiudizi e di far passare il messaggio che innanzitutto le persone transgender hanno diritto di competere nelle categorie sportive alle quali appartengono nella loro nuova scelta di elezione di genere. Però c'è anche poi tutta una serie di controversie in questa cosa. La campagna di Impact vuole porre queste domande, vuole soprattutto far arrivare al grande pubblico un messaggio di empatia, di sensibilizzazione e far conoscere la figura di Valentina e tutto quello che ruota intorno a questa incredibile storia, in modo che si possano anche poi attivare un cambiamento a livello sociale, diciamo che è un obiettivo abbastanza alto, però ci sono tutta una serie di metodologie, di tecniche che ci permettono di costruire questa campagna con questi obiettivi, quindi creare sensibilizzazione, ma anche poi creare poi un cambiamento reale nelle politiche, nelle pratiche, nei comportamenti. Ecco, è un progetto bellissimo che si sviluppa su questi due fronti. Molto particolare la scelta del titolo del film, 5 nanomoli. Che cosa significa e perché questa scelta, Elisa? Dunque, un titolo abbastanza originale, però significativo, perché 5 nanomoli è la soglia di testosterone stabilita dai regolamenti internazionali oltre la quale un atleta transgender non potrebbe gareggiare nella categoria femminile. Quindi Valentina, per poter gareggiare nella categoria femminile, ha, come dire, mantenuto i suoi livelli di testosterone proprio nel sangue, misurati attraverso esami specifici per rientrare appunto in queste norme. Ultima domanda che ti chiedo, Elisa, e so che il film è in fase di montaggio, quando sarà visibile? Non mi posso impegnare a dare una risposta perché è una fase molto delicata e quindi ci auguriamo nel giro di qualche mese di avere finalmente il lancio del film. Però ecco, invitiamo tutti a seguirci, abbiamo un sito che è 5nanomoli.it, 5 col numero, e quindi insomma lì poi ci saranno tutti gli aggiornamenti del caso, e sia sul film che sulla campagna di Impact.